Considerando l'infinita complessità dei rapporti di tutti gli organismi, ritengo che sarebbe quanto mai strano che non vi si fosse mai verificata una variazione giovevole al benessere di ciascuno. È il 12 febbraio 2009 e in questo giorno speciale celebriamo il 200° anniversario della nascita di Charles Darwin. Charles Darwin è l'uomo che nel 1959 pubblicò il libro L'origine delle specie, l'opera rivoluzionaria che ha rinnovato il pensiero scientifico liberandolo dai vecchi schemi della tradizione teologica. E per parlare di Darwin Day, ma soprattutto del personaggio Charles Darwin, abbiamo al telefono il professor Telmo Pievani, epistemologo e filosofo della scienza. Professor Pievani, la prima domanda è: chi era Charles Darwin? Darwin era di formazione un geologo, anche se noi ce lo ricordiamo, è più famoso diciamo come naturalista o come zoologo. Era un ragazzo di buona famiglia che giovanissimo parte per un viaggio inaspettato, un'occasione che gli viene offerta di stare in giro per il mondo per 5 anni, e in questo viaggio comincia a raccogliere una serie di indizi straordinari sul fatto che le specie potrebbero non essere stabili come si era sempre pensato prima, generalmente, anche se qualcuno già aveva sospettato che ci fosse una evoluzione, una trasformazione. E poi è soprattutto un ragazzo che appena torna da questo viaggio comincia un altro viaggio, un secondo viaggio, questo tutto mentale e tra l'altro tutto segreto, perché ci metterà 20 anni prima di confessarlo a qualcuno, in cui, compilando dei taccuini inediti, scrive quella che noi oggi sappiamo essere la teoria dell'evoluzione. Quindi una storia avventurosa, interessante, che noi cerchiamo di raccontare approfittando del bicentenario. Professor Pievani, si narra che Charles Darwin viaggiò verso le isole Galapagos col suo bigantino Beagle e lì vennero fatte delle scoperte assolutamente straordinarie. Ma esattamente, per sommi capi, qual è la scoperta più importante di Charles Darwin? Ma noi naturalmente diciamo, pensiamo sempre che la scienza sia una sorta di processo di illuminazione improvvisa, cosa che non è quasi mai, no? Non è che si accende la lampadina. E infatti quando lui va alle Galapagos si capisce benissimo che non ha in mano una teoria, e tant'è vero che fa un sacco di osservazioni, ma alcune le sbaglia. Per esempio i famosissimi fringuelli di Darwin lui li cataloga male, li mette tutti in una cassa senza separarne le isole di provenienza, eccetera. Quindi lui che cosa vede in sostanza? Vede che gli animali sono molto diversi fra di loro, e in particolare in contesti come le Galapagos le popolazioni di organismi si separano nelle diverse isole presentando adattamenti diversi da isola a isola. E quindi dopo, a posteriori, quindi non quando è lì naturalmente, capirà che quello schema è dovuto al fatto che hanno un antenato comune, in questo caso non so, fringuello che originariamente ha colonizzato le Galapagos, e poi da un antenato comune l'evoluzione procede per ramificazione, cioè per diversificazione di specie, producendo quello che poi Darwin chiamerà l'albero della vita. Questo è quello che lui vede alle Galapagos. Tempo dopo, ma solo tempo dopo, lui capirà anche la selezione naturale e il meccanismo che c'è sotto tutto questo. Nella risposta precedente lei ci parlava di viaggi e ci parlava di tempi, ma qual è l'eredità storica che ci ha lasciato Charles Darwin? Ma secondo me, a parte diciamo i contenuti scientifici che abbiamo detto adesso, che sono ancora attuali, perché nonostante tutti gli aggiornamenti che ne abbiamo fatto, però il nocciolo centrale della spiegazione evoluzionistica è ancora quello darwiniano. Secondo me anche, è utile ricordarlo anche per il metodo che ci ha lasciato. Prima dicevamo dell'avventura intellettuale, questa bellissima storia di una scoperta scientifica imprevista, eccetera. Perché Darwin era un grandissimo osservatore, cioè ci ha lasciato un metodo molto particolare, fatto di analisi, di osservazione, proprio un'osservazione estetica, cioè lui aveva un talento straordinario nell'osservare gli animali, nel capire le differenze tra le varie forme, colori, eccetera, eccetera. E però, insieme con questa capacità analitica, diciamo, lui è stato il primo che ha trovato una cornice teorica molto elegante, molto sintetica, fatta di pochi principi, che se ci pensiamo bene oggi, 2009, spiega una quantità di fenomeni enormi, perché se pensiamo che la teoria dell'evoluzione praticamente si usa, non so, i paleontologi la usano per capire fossili e grandi transizioni sui milioni di anni, i genetisti la vedono nei geni, gli etologi la vedono nel comportamento animale, si capisce? È una teoria che ha un'applicazione empirica molto diversificata, quindi è veramente una rivoluzione scientifica di grande potenza, insomma, quindi è bene ricordarlo anche per capire bene che cos'è la scienza, come funziona e qual è il suo potere esplicativo e naturalmente anche i suoi limiti. A questo punto, professor Pievani, le voglio fare una domanda da filosofo. Feyerabend parlava dell'anarchia del metodo scientifico, cioè spiegava il fatto che tutte le volte che c'è stato un avanzamento scientifico o una rivoluzione scientifica, c'è stato un superamento e un abbattimento del metodo scientifico che viene comunemente utilizzato dagli scienziati. Anche Darwin, quindi, è stato un po' un anarchico del metodo scientifico? Sì, sì, sicuramente, è stato un grandissimo avanzamento metodologico. Rispetto al riferimento di Paul Feyerabend sull'anarchia, senz'altro direi di sì, nel momento in cui lui in qualche modo si inventa una modalità esplicativa nuova per capire le scienze della vita e apre una storia che anche in questo caso, se ci pensiamo bene, arriva fino a oggi, perché noi oggi sappiamo anche grazie a Darwin che nella scienza non c'è un metodo, ma che ci sono tante scienze, tanti metodi diversi, che il metodo che si applica in fisica teorica non può essere applicato senz'altro alla biologia evoluzionistica. La biologia evoluzionistica ha a che fare con la storia, con la storicità delle spiegazioni e così via, quindi non può essere ridotta esclusivamente ad altre spiegazioni. E questo Darwin ci ha insegnato a capirlo, perché prima di Darwin qualche fisico in modo un po' sbrigativo diceva che le scienze naturali erano una specie di collezionismo di francobolli, che voleva dire si raccolgono tanti dati sparsi e li si mette in ordine e basta e ci si ferma lì. E invece la fisica è quella che spiega davvero le leggi di natura. Dopo Darwin questa affermazione è un po' più difficile da fare, perché certo ci sono le raccolte di dati empirici, ma c'è anche la capacità di costruire grandi teorie esplicative molto sintetiche, come appunto quella di Darwin, o diciamo quella che oggi nel 2009 si usa, che viene chiamata neo-darwiniana perché è stata ovviamente integrata e aggiornata. Lei, professor Pievani, si occupa di Darwin da molto molto tempo. Posso chiedere che cosa l'ha stupita di più della storia di questo straordinario personaggio? La scoperta che mi ha stupito di più studiandolo è recente, perché ho scoperto e ho studiato poi tanto i taccuini segreti di Darwin e io consiglio davvero a tutti di leggerli, perché sono un documento eccezionale, perché quasi sempre nella scienza il processo di scoperta viene raccontato a posteriori, no, dagli scienziati, cioè tu hai il grande scienziato famoso già nel cuore, nel pieno, magari il vecchio, cioè che ti racconta a posteriori come è arrivato alla sua grande idea, e va bene, e ne conosciamo tante di queste autobiografie. Invece nei taccuini tu vedi un ragazzo non ancora trentenne che segretamente, giorno per giorno, racconta a se stesso una storia che lo porterà a fare una grandissima scoperta scientifica. E se tu spiassi, entrassi nella sua mente e giorno per giorno tu seguissi il suo stesso percorso di scoperta, è un fatto eccezionale, difficilissimo trovare un documento del genere. E leggerlo è appassionante perché vedi come funziona la scoperta scientifica. E davvero, quando vedi come funziona la scoperta scientifica, capisci che tantissimi elementi che noi pensiamo siano estranei alla scienza, le visioni di sfondo, gli avversari contro cui ti devi battere, le intuizioni improvvise, gli errori, i cambiamenti di idea, tutto in qualche modo rientra in questo processo molto complicato che poi alla fine ti porta a una scoperta scientifica e soprattutto a capire che hai fatto una scoperta scientifica. Questo non è banale, perché non basta descrivere bene quello che hai visto, ma devi capire che tu hai una spiegazione potente e alternativa rispetto alle precedenti. Volevo con lei un attimo tornare indietro nel tempo, perché quest'opera è stata pubblicata per la prima volta nel 1959, Annus Domini 2009. Da allora sono passati 150 anni e ormai la genetica ha spiegato come funziona veramente l'organismo umano dall'interno. E quindi oggi qual è l'attualità della teoria darwiniana? È superata oppure no? No, direi è ancora validissima sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista empirico, nel senso che Darwin lo diceva sempre, lui ha costruito la teoria dal tetto anziché dalle fondamenta, quindi ha visto la selezione naturale funzionare diciamo sui grandi sistemi. Noi oggi la vediamo nel piccolo attraverso i geni, i cromosomi, e sappiamo che è una potenza estremamente diffusa, quindi è un fattore centrale, fondamentale del cambiamento delle specie in natura. Certo, con la genetica abbiamo capito tante cose in più, alcune hanno corretto delle idee che Darwin si era fatto, altre hanno integrato, sono due cose diverse. Correggere vuol dire che c'è una revisione dell'impianto darwiniano, e ce ne sono state di importanti, ma nella stragrande maggioranza dei casi sono delle integrazioni, cioè noi scopriamo che ci sono dei fattori in più perché lui non aveva visto e che sono importanti, per esempio la deriva genetica, meccanismi di fissazione casuale di varianti geniche, sono molto importanti, lui non poteva nemmeno sapere che esistessero perché ovviamente non sapeva cos'erano i geni cromosomi, però il fatto importante da ricordare sempre è che queste nuove scoperte non hanno prodotto quello che è successo in altri casi, cioè un superamento della teoria precedente, ma una sua integrazione, che è una cosa diversa. Quindi è ancora attuale anche scientificamente, anche sperimentalmente, anzi è più convalidato che mai in questo momento. Una polemica che la vecchia Europa ha importato direttamente dagli Stati Uniti è questa polemica relativa all'intelligent design, cioè fondamentalmente una teoria che dovrebbe spiegare come il mondo sia stato creato non attraverso l'evoluzione da organismi semplici a organismi sempre più complessi, ma per effetto di un semplice creazionismo, cioè un demiurgo che crea gli esseri viventi indipendenti l'uno dall'altro. E questo, lo sappiamo, si concilia ovviamente molto bene con le credenze religiose. L'abbiamo detto più volte, ma forse vale la pena ancora una volta ripeterlo. L'intelligent design è scienza oppure no? No, l'intelligent design allo stato attuale delle nostre conoscenze non ha alcuna base scientifica, non può essere considerato in alcun modo un'alternativa. È una dottrina di tipo filosofico, di tipo religioso, è una forma, si dice, di neocreazionismo, che a differenza del primo creazionismo accetta il fatto dell'evoluzione, quindi viene accettato l'idea che le specie siano tutte imparentate fra di loro e che si trasformino nel corso del tempo. Però i sostenitori dell'intelligent design, una volta accettato il fatto, sostengono che la spiegazione di quell'evoluzione è l'intervento di un disegnatore intelligente, di un progettista, di un'intelligenza suprema che avrebbe architettato tutta l'evoluzione producendo gli adattamenti delle forme viventi, e cercano degli indizi nella complessità degli organismi eccetera eccetera, che però non hanno nessun valore scientifico, perché tutte i richiami empirici che loro fanno sono già spiegati abbondantemente dall'attuale teoria dell'evoluzione neodarwiniana, e questo ormai lo hanno ammesso quasi per tutti i casi perché sono stati messi in discussione. Allora adesso in qualche modo si sono un po' ritirati e il loro argomento è, diciamo, cercare di dimostrare che la spiegazione darwiniana è incompleta oppure che è sbagliata, quindi si sono messi un po' più sulla difensiva, ma anche in quel caso secondo me falliscono, perché molti dei problemi che loro vedono nella teoria dell'evoluzione o sono già stati superati o sono in via di superamento con le conoscenze attuali che abbiamo oggi. Quindi, dovendo essere molto sintetico, secondo me non è un buon dibattito quello, nel senso che ogni teoria scientifica deve essere messa in discussione, assolutamente, il dissenso nella scienza è il sale di tutto, però è chiaro che se tu devi mettere in discussione una teoria scientifica devi farlo con delle prove empiriche, con dei dati nuovi, con delle nuove modalità esplicative, devi spiegare tutto quello che spiega la teoria precedente più qualcosa di nuovo, eccetera eccetera. Questo è normale che succeda nella scienza, ma non è il caso dell'intelligent design, che non riesce ad assolvere a nessuno di questi oneri della prova che dovrebbe avere. Professor Pievani, le faccio un'ultima domanda prima di concludere lo speciale su Darwin. Faccia finta che io abbia 10 anni che non abbia mai letto L'origine della specie di Darwin. Provi a convincermi che per la mia formazione è necessario che io legga questo libro. Dovresti prenderlo, perché è un libro nel pieno di esempi. È forse l'unico caso che io ricordo in cui una rivoluzione scientifica viene raccontata non per gli specialisti, ma per un pubblico generale. E noterai dentro che Darwin cita grandi teorici, ma anche allevatori di campagna, cita tantissime fonti, anche aneddotiche, e ti racconta una storia, una bella storia, che finisce con quella frase bellissima, che c'è qualcosa di grandioso in questa visione della vita, che poi è l'unità nella diversità, questa idea di fondo, cioè l'idea che sulla Terra c'è stata una lunga storia di unità, per cui tutte le forme viventi sono imparentate l'una con l'altra, ma dentro quella storia lì l'evoluzione è stata capace di produrre una grandissima diversità, quindi unità nella diversità. Questa è un po' l'idea di fondo che ci ha lasciato Darwin. Se si verificano effettivamente delle variazioni utili a qualsiasi vivente, sicuramente gli individui che le possiedono avranno più probabilità di conservarsi nella lotta per la vita.